Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Italia riparte, più traffico e bar aperti nelle città, ma non c'è il pienone tra i commercianti e prevale la prudenza. Regioni con regole diverse, mascherina all'aperto in Sicilia, spiagge attive in Sardegna, obbligo di misurazione della temperatura in Lombardia per i ristoranti. Alcuni paesi non hanno rispettato le indicazioni, così il segretario dell'ONU Guterres all'Assemblea Generale dell'OMS, assente Taiwan nonostante i successi nel contrasto al coronavirus. Consumi crollati del 47% ad aprile in Italia, dice Confcommercio, molti negozi non riusciranno a superare la crisi. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Come avete sentito anche dai titoli, oggi giornata di riapertura e quindi faremo un primo bilancio. Giornata importante anche però perché c'è la riunione dell'Assemblea Generale dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, nella quale si sta discutendo della fase attuale, ma c'è anche la richiesta di 100 paesi di aprire una inchiesta sulla gestione della prima fase soprattutto dell'epidemia di coronavirus. Ma veniamo in Italia, di questo parleremo tra poco. Adesso iniziamo invece dalla cronaca della giornata, perché dicevamo giornata di svolta per la riapertura attesa di tante attività commerciali in tutte le città italiane. Come sta andando? Ce lo racconta in diretta Sergio Nava. Buongiorno Italia, dunque approdata ad oggi in una nuova ulteriore fase con bar, ristoranti e altre attività che hanno riaperto, oltre naturalmente alla possibilità di muoversi all'interno della propria regione senza autocertificazione. Oggi entriamo a pieno regime nella fase 2, ci inoltriamo con fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica. Così il Premier Conte: a Milano ha riaperto il Duomo ed è cresciuto l'afflusso di passeggeri su alcune linee della metropolitana, a Roma traffico più intenso, soprattutto sul grande raccordo anulare. A Venezia è riaperta la Basilica di San Marco, ma non i caffè storici, riprese l'attività anche a Torino e Bologna, mentre a Bergamo, la città più colpita dall'emergenza, ha riaperto il cimitero monumentale. Ricordiamo anche che in Lombardia resta l'obbligo di mascherina anche all'aperto e sia le piscine sia le palestre riapriranno solo il 1 giugno. In Sardegna la novità più importante riguarda il libero accesso alle spiagge a partire da oggi, in questo caso però il maltempo ha guastato questa riapertura. Sull'isola resta l'obbligo di quarantena. Infine, la Campania non ha firmato l'intesa Stato-Regioni, il governatore De Luca ha annunciato che sulla mobilità interregionale dal 3 giugno deciderà solamente il giorno prima. È tutto. Grazie Sergio, e vi ricordo che più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno torneremo in presa diretta a Roma e a Milano per vedere come sta andando, anche con le voci insomma dei commercianti. Era veramente la loro giornata questa, sentiremo come è andata stamattina all'ora del caffè, come sta andando ancora adesso. Dunque sentivate regioni in ordine sparso con tante ordinanze diverse che hanno fatto seguito al decreto del governo sulla libertà di spostamento all'interno delle regioni e anche al DPCM con le linee guida per le attività produttive stesse, un percorso che insomma ha avuto anche qualche intoppo nelle ultime ore. Sentiamo. Il paese si rimette in moto, ma la strada è ancora lunga e non si dovrà mai abbassare la guardia. Così il Premier Giuseppe Conte in una lettera in cui ricorda la necessità di continuare a rispettare le regole di precauzione e sicurezza. Sappiamo che gli ultimi decreti legge non potranno essere la soluzione per tutti i problemi economici e sociali, aggiunge Conte. Il governo ha il lavoro per fare di più e meglio e non è sordo alle tante difficoltà dei cittadini. L'impegno, aggiunge il Premier, è che gli aiuti arrivino a tutti e in maniera più veloce di quanto accaduto sino ad oggi. Nelle prossime ore è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nega a Sky TG24 rimpasti di governo. Io credo che siamo concentrati sul lavorare, credo che sia il modo migliore per rispondere a tutte le accuse, a tutti i retroscena che vedo ricchi di fantascienza all'interno dei giornali e che non rappresentano invece la leale collaborazione che c'è all'interno del governo. Ed Incà spiega che i passi successivi al decreto rilancio sono quello sulle semplificazioni e poi continuare con il recovery fund e con i fondi per la ripresa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora, come dicevamo nel titolo, l'Assemblea Generale dell'OMS, sentiamo la cronaca perché secondo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres alcuni paesi hanno ignorato le indicazioni dell'OMS e intanto alla riunione dell'OMS è assente Taiwan, che aveva fatto pressioni per prendere parte all'organo decisionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, volendo condividere l'esperienza di successo nella lotta al coronavirus, avendo riportato solo 440 casi e 7 decessi grazie al lavoro di diagnosi e prevenzione, ma l'invito a partecipare non è mai arrivato a causa del veto posto dalla Cina. Sono oltre 100 i paesi, compresa la Russia, che appoggiano la risoluzione proposta dall'Unione Europea per un'inchiesta imparziale e indipendente sulle origini del coronavirus. La bozza verrà presentata oggi durante la 73esima Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. La Cina ritiene invece prematuro l'avvio di un'indagine sulla pandemia che finora ha colpito più di 4,7 milioni di persone nel mondo, uccidendone oltre 315.000, secondo l'Università americana Johns Hopkins. Il paese con il maggior numero di morti, gli Stati Uniti, 90.000, seguiti dal Regno Unito e Italia, entrambi sopra quota 31.000. Per numero di contagi, il Brasile supera Spagna e Italia, collocandosi al quarto posto dopo USA, Russia e Gran Bretagna. E il sistema sanitario del paese potrebbe crollare, afferma il sindaco di San Paolo, Bruno Covas. Gli ospedali pubblici della città hanno raggiunto il 90%. E potrebbero esaurire lo spazio in circa 2 settimane, spiega Covas. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, come sentivamo, fase 2 definitivamente attiva da oggi in Italia, ma i danni per il commercio sono molto ingenti. Secondo Confcommercio, nella fase più cupa del lockdown, nel mese di aprile, il calo dei consumi è stato addirittura del 47%, così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Ad aprile i consumi sono crollati del 47% col rischio di danni permanenti all'economia. È iniziata la fase 2. Sosteniamo il coraggio e la responsabilità delle imprese che tra mille difficoltà ripartono. Sosteniamo la sicurezza individuale che diventa sicurezza collettiva. Sosteniamo questa voglia di ripresa con indennizi più robusti e liquidità vera e con più certezze. Serve un piano di ricostruzione complessiva del paese che oggi ancora non c'è. E da oggi riapre tutto anche in Sardegna, comprese le spiagge, ma per la stagione turistica la regione sta pensando a un passaporto sanitario tramite test e tamponi che possa garantire vacanze serene ai turisti, ma anche preservare l'isola fin qua poco toccata dal virus. Di spiagge, spiagge libere, parleremo ancora tra poco, andremo in Riviera Romagnola. Adesso invece ci trasferiamo in Campania, l'unica regione a non aver firmato l'intesa col governo sulla fase 2. Le attività ripartiranno con qualche giorno di ritardo. La Campania riapre, ma in parte. Da stamattina hanno rialzato la saracinesca, gli artigiani, i barbieri, parrucchieri, commercio anche al dettaglio, bar per servizio al bancone, musei, biblioteche e centri culturali. Mentre i ristoranti, bar, pizzerie e food in generale per il servizio a tavolino ripartiranno giovedì 21. Per gli stabilimenti balneari sono allo studio misure di sicurezza, la data ipotizzata è il 25. Queste sono le principali indicazioni fornite dall'ordinanza numero 48 firmata ieri sera dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, dopo aver atteso le disposizioni nazionali e dopo uno strappo con il Governo. De Luca infatti non ha firmato l'intesa con cui il Governo ha lasciato autonomia alle regioni. Per il governatore campano la questione dei trasferimenti regionali, che potrebbero partire liberamente dal 3 giugno, non può essere demandata totalmente alle regioni, ma dovrebbe essere guidata dal Ministero della Salute. La decisione per ora è rinviata al 2 giugno. Vera Viola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Genova invece si è svolto stamattina il primo corteo della fase 2 dopo il Covid, il primo corteo di operai, in questo caso erano lavoratori di ArcelorMittal. In 500 in corteo, tutti con la mascherina, dallo stabilimento di Cornigliano al centro, la prima manifestazione sindacale di piazza dopo il lockdown va in scena a Genova, al di là dei distanziamenti più virtuali che reali e dei divieti. Ad innescare la tensione è stata la decisione di ArcelorMittal di estendere ad altri dipendenti la cassa integrazione straordinaria. Iniziativa immotivata per i sindacati, in queste settimane sottolineano lo stabilimento addirittura intensificato la produzione. Più in generale generale, tra i lavoratori cresce la preoccupazione di fronte alla prospettiva di ulteriori ridimensionamenti dei livelli occupazionali all'interno del gruppo siderurgico. Temi un numero vuol dire che in questa fabbrica di 1000 persone, uno scenario così, ci lavoreranno 350 persone. È in ballo, secondo noi, il futuro della siderurgia in Italia. Il 6 settembre del 2018 avevamo fatto un accordo che dava sicurezza, garanzie, dava un piano industriale e anche di ambientalizzazione per tutto il ciclo della siderurgia, compreso lo stabilimento di Taranto. Per le 16 il prefetto ha convocato azienda e sindacati. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Atteso per oggi, forse già oggi, un nuovo documento con le linee guida per quanto riguarda la sicurezza dell'esame di maturità, scuola che al momento rimane ancora senza un piano preciso e senza date per la riapertura. Riapre tutto, dai negozi alle estetiste, con un'unica eccezione, la scuola, che rimane chiusa. Neppure nominata dal Premier nel suo discorso di sabato, la ripartenza in settembre è ancora incerta nelle modalità. L'ipotesi di alternare scuola in presenza a scuola in remoto non piace poi a 16 intellettuali, fra cui il filosofo Massimo Cacciari, che hanno firmato un appello per tornare fra i banchi. La scuola a distanza non piace neppure agli studenti, stando a un sondaggio dell'associazione DITE, Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyber Bullismo, uno su due si stanca e si distrae di più in remoto. L'80% poi ha cambiato i ritmi del sonno e della veglia. E c'è poi la dispersione scolastica. Secondo un sondaggio di Cittadinanza Attiva, il 92% delle scuole ha avviato la DAD, ma il 48% degli studenti non ha più partecipato alle lezioni, o perché non aveva il PC, oppure perché aveva una connessione scarsa. L'unica novità per la maturità, che inizierà il 17 di giugno, si saprà oggi, quando sarà presentato il documento con le misure organizzative di prevenzione e protezione per lo svolgimento degli esami di Stato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, in chiusura di Giornale Radio, torniamo a parlare di spiagge. Sentiamo, facciamo un punto dalla Sardegna alle altre riviere. In attesa che dal 3 giugno prossimo siano concessi gli spostamenti interregionali, già da questa settimana riaprono le spiagge, sia quelle libere che quelle attrezzate o in dotazione a strutture ricettive in tutta Italia. Gli spazi andranno riorganizzati per mantenere sempre almeno un metro di distanza tra i bagnanti. Sia la pulizia che la disinfezione devono essere frequenti e regolari anche in aree comuni come docce o cabine, e si potrà impedire l'ingresso alle persone con temperatura superiore ai 37,5. In Sardegna ad oggi libero accesso a tutte le spiagge con obbligo di mascherina nei locali pubblici e nei luoghi all'aperto dove non è possibile il distanziamento di un metro. Al mare si potrà andare non solo per passeggiare ma anche per prendere il sole e nuotare. Servirà però un passaporto sanitario ed è previsto l'obbligo di quarantena per 14 giorni a prescindere dal luogo di provenienza. In Liguria, dopo Ventimiglia, riaprono da oggi gli stabilimenti balneari a discrezione dei gestori e le spiagge libere, anche quelle attrezzate, oggetto di ordinanze dei comuni. In Emilia-Romagna riaperti 110 km di spiagge tra Comacchio e Cattolica, mentre gli stabilimenti balneari riaprono dal 25. Ripartenza attesa in Lazio sugli oltre 40 km di costa tra Ostia, Fiumicino e Fregene. Anche lì di pugliesi potranno ricominciare da lunedì 25 maggio, resta però in vigore sino al 2 giugno l'obbligo di quarantena per chi rientra da altre regioni. Stessa cosa in Sicilia. In Calabria, infine, stabilimenti balneari e spiagge riaprono dal 20 maggio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 14 minuti, facciamo un piccolo break. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dai nostri inviati tra Milano e Roma. Oggi era la giornata tanto attesa della ripartenza, soprattutto delle attività commerciali, insomma dei negozi, dai bar all'ora della colazione. Sentiremo com'è andata, i negozi di abbigliamento, i parrucchieri, di cui si è pure parlato tantissimo. Adesso è l'ora della pausa pranzo, sentiremo come sta andando. Vi anticipo soltanto questo: quello che raccontano i nostri inviati, non c'è stato il pienone, insomma prevale ancora molta prudenza. 349-238-6666, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Al via l'assemblea dell'OMS, 100 paesi chiedono un'inchiesta sul coronavirus, assente Taiwan per il veto cinese nonostante i successi nel contrasto all'epidemia. L'Italia riparte, più traffico e bar aperti nelle città, ma non c'è il pienone, tra i commercianti prevale la prudenza. Consumi crollati del 47% ad aprile, intanto dice Confcommercio, molti negozi non riusciranno a superare la crisi. Eccoci qua, 13:16 minuti di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, come abbiamo già anticipato, iniziamo il nostro viaggio con i nostri inviati tra Roma e Milano per sentire com'è andata la giornata. Cominciamo con Roma, Alessandro Arona in collegamento. Buongiorno, ciao Alessandro. Sì, buongiorno Alessio. Dove ti trovi? Guarda, sono in zona Piazza Indipendenza, una zona che diciamo è divisa tra turisti, che ovviamente non ci sono, ma ci sono anche molti uffici, c'è il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero delle Infrastrutture, di solito a quest'ora in pausa pranzo è pieno di tavolini all'aperto. Pullula di persone. E invece purtroppo non è così, alcuni locali non hanno riaperto, altri hanno aperto e diciamo che non fanno fatica a far rispettare le distanze perché i clienti sono pochi, c'è qualcuno più ottimista, altri meno. La ripartenza è lenta, l'abbiamo vista soprattutto anche stamattina, abbiamo fatto il test delle complanari alle 7 del mattino che di solito sono completamente intasate nell'ingresso a Roma, oggi invece erano praticamente vuote, si andava lisci e quindi la colazione, hanno riaperto i bar, non tutti, alcuni abbiamo trovato molti bar chiusi e altri diciamo che lavoravano comunque poco, c'è ancora abbastanza prudenza. Devo dire che il settore della ristorazione è quello più preoccupato, mentre c'è più ottimismo tra i parrucchieri. Abbiamo sentito il titolare di un salone diciamo medio grande per donne e poi un tradizionale parrucchiere barbiere per uomini. Sentiamoli. La lista degli appuntamenti è bella rimpolpata rispetto a quello che comunque ci aspettavamo. Per le prossime due settimane siamo abbastanza incasinati. Sicuramente sarà macchinoso. Il listino prezzi dei servizi non l'abbiamo aumentato. Nei messaggi che ho mandato ai miei clienti ho chiesto se nel caso loro volessero una piccola partecipazione alla sanificazione del negozio, a tutto quello che poi è inerente all'aumento dei costi. Sempre con prenotazioni. Già lavorava prima con le prenotazioni? No, io lavoravo normale, adesso questo fatto delle cose, ma poi ne hanno fatto sta chiusa due mesi senza darci niente, neanche i bolletti a pagare, i spesi corrono e senza farci lavorare. Ecco, così dunque i parrucchieri, questa mattina al tuo microfono Alessandro Arona, già mi sembra di cogliere un'indicazione interessante sulla questione dei prezzi, quel titolare dice non voglio aumentare i prezzi, magari un contributo sì ai costi per la sanificazione che sono effettivamente un costo in più per molti negozianti. Alessandro, è l'ora di pranzo, no? Tu sei in una zona normalmente super trafficata, che sensazione hai guardandoti attorno? Ci sono persone che stanno ai tavolini, stanno consumando il pranzo? Ma guarda, cose da una di questo parte genere? Consapevolezza da parte dei ristoratori che ancora la maggior parte degli uffici tengono le persone a casa in smart working, quindi le persone rientrate sono ancora poche. Quelle che sono rientrate poi spesso sono prudenti, cioè preferiscono magari prendere da asporto, prendere una cosa e mangiarsela in redazione. Come già negli ultimi giorni si poteva fare come con l'asporto. Già negli ultimi giorni. Quindi oggi poca gente, insomma. Siamo stati in via del corso, abbiamo sentito alcuni titolari di negozi di abbigliamento, ovviamente hanno appena aperto, però c'è una moderata fiducia, sentiamoli. Oggi è il primo giorno, quindi non sappiamo bene cosa ci aspetta, cerchiamo di essere positivi dopo insomma questo periodo un po' particolare. I dipendenti sono rientrati tutti? No, parte non ancora... tutti, lavoriamo a squadre. Sì, abbiamo riaperto oggi e vediamo, speriamo vada tutto bene. È già arrivato qualcuno? Qualche sì, cliente? Sì, abbiamo già una cliente in negozio, abbiamo dato alle possibilità alle nostre clienti di prendere un appuntamento. Abbiamo riaperto questa mattina, sì. Avete già avuto clienti? Abbiamo una cliente all'interno, stando al centro di Roma, più che altro sono stranieri, mm-hmm. Una fetta molto young in realtà. Mm-hmm. E aspettiamo un po'. Sono un artista di strada, sì. È il primo giorno dopo due mesi. Non troppo triste, alla fine bisogna sempre ricominciare. E va bene, ringraziamo il nostro Alessandro Arona da Roma, che avete sentito anche insomma il racconto proprio all'ora di pranzo, normalmente insomma pre-lockdown, pre-coronavirus, con questo bel tempo, anche se oggi a Roma il tempo non era bellissimo, insomma strade pullulerebbero di persone e ci sarebbero tutti sui tavolini a fare la pausa pranzo. Non è così, prevale la prudenza a Roma, prevale la vendita da asporto per quanto riguarda bar e ristoranti. Sentiamo invece com'è andata questa mattina, ci spostiamo a Milano e partiamo dall'ora della colazione con Rosanna Magnano. Corso Buenos Aires, un'importante via commerciale di Milano che in era pre-Covid era percorsa da 100.000 persone al giorno e registrava un fatturato complessivo altissimo dalle sue centinaia di negozi, oggi si è risvegliata lentamente con una pista ciclabile appena tracciata e con i bar che finalmente possono accogliere i clienti e servire un caffè al bancone o al tavolino nel rispetto delle distanze e delle norme igieniche. Pierangelo, titolare dello storico bar pasticceria San Gregorio. Io aprivo la mattina alle 4 e c'avevo già molti clienti che facevano la notte, specialmente anche i calciatori che arrivavano dalle serate così e avevano un punto di ritrovo dove venivano qui a far colazione e tutto questo è sparito, ma teniamo presente che tutto questo incide sui miei 18.000 euro al mese di affitto, dove la proprietà di sconti non te ne fa. Vedo anche la difficoltà della gente, le volte che mi chiedono il prezzo della torta, me lo chiedono 2 o 3 volte. È sempre lo stesso prezzo che avevo 2 anni fa. Il traffico torna sostenuto, ma non è un bagno di folla. Donne e uomini, dopo la reclusione, ritrovano il piacere di curare il proprio aspetto e parrucchieri e centri estetici non fanno fatica a ritrovare i vecchi clienti. Barbara, titolare del centro estetico Miami Beach. Purtroppo non c'è stato il tempo materiale di organizzarsi, quindi noi questa mattina siamo qua per prendere gli appuntamenti telefonici che però tentiamo di prendere per la prossima settimana o per il fine settimana. È un po' complicata la ripresa gestita così, anche perché le linee guida sono state date alla fine ieri pomeriggio, quindi siamo pronti, siamo sanificati, siamo mascherate, le clienti sarebbero pronte per venire, dobbiamo preparare tutto quello che è anche le disposizioni e le regole nuove. La voglia di ripartire c'è, ma la corsa allo shopping è un lontano ricordo e nelle vetrine dei negozi di abbigliamento si moltiplicano offerte e sconti dal 20 fino al 70%. Lucia, responsabile del punto vendita Antonio Fusaro. Cerchiamo solo di iniziare, quindi cercheremo di prendere tutte le precauzioni possibili. Questo è un negozio di abbigliamento maschile. Sì. Gli uomini ci sono, i clienti uomini a Milano ci sono? Sì, abbastanza, sì. Milano è una grande città, c'è di tutto, cioè nel senso anche le donne perché devono fare i regali ai mariti. Oggi come sta andando? Allora, abbiamo aperto da poco, quindi siamo ottimiste, aspettiamo il cliente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso è con noi Roberta Frisoni, assessore al demanio alla programmazione e gestione del territorio del Comune di Rimini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Torniamo a parlare di spiagge, perché da oggi sono aperte in Sardegna e anche in altre regioni. La stagione vera e propria, lo sappiamo, dipende anche dal clima, normalmente inizia tra un po'. Alcune incognite sull'andamento di questa che sarà una stagione assolutamente particolare sono svanite con le linee guida del DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio Conte, quelle stesse linee guida che hanno tenuto col fiato sospeso l'intesa tra governo e regioni la notte tra sabato e domenica, e sono linee guida meno severe di quanto aveva previsto il Comitato Tecnico Scientifico, quindi diciamo che dal punto di vista dei gestori sono comunque una buona notizia. Il punto però sarà limitare l'affollamento e capire se questa limitazione avrà ricadute sui prezzi, che le spiagge potrebbero costare di più, l'accesso alle spiagge potrà costare di più, è quasi sicuro che questa cosa possa avvenire, e resterebbe il tema delle spiagge libere. Però anche sulle spiagge libere, assessore, e da questo vorrei partire con lei, abbiamo letto che tanto libere non saranno, perché anche lì voi che siete una delle riviere più, diciamo, più organizzate per definizione state già pensando di dover intervenire, così? In realtà interverremo per far rispettare quelli che sono i protocolli e le necessità di distanziamento e di sicurezza che ci stanno accompagnando in questa fase un po' in tutte le attività, per cui voglio rassicurare, sarà sempre una spiaggia libera. Quello che dovremo fare, che stiamo facendo, è che ci sarà un servizio un po' più organizzato, quindi sarà un accesso libero, ma dovremo individuare delle sorte di piazzole con dei posizionamenti, dei segnaposto, perché così si tutelerebbe, si sincereremo di garantire i corretti distanziamenti, così come dovremmo fare segnare dei percorsi per l'accesso al mare e per l'accesso ai vari servizi, tipo i servizi igienici. Quindi quello che faremo sarà avere, insomma, più organizzazione e anche degli steward all'ingresso che comunicheranno quelle che sono le norme per poter accedere e usufruire della spiaggia libera e segnaleranno anche le postazioni in cui si potrà andare. Diciamo un accesso libero che si conferma nonostante tutto, anche se più organizzato, e questo diciamo è doveroso ma anche gratuito, perché questi servizi non avranno un costo, perché sennò poi si rischia di riprodurre, diciamo, la questione dei prezzi. No, l'accesso sarà completamente gratuito, quindi è l'amministrazione comunale che si sta nel nostro caso a apprezzando per far sì che le spiagge siano libere e fruibili, però che rispettino quelli che sono i protocolli e le norme da dover attuare. Ma voglio, insomma, assicurare che si tratterà sempre di accesso gratuito, sarà disciplinato, ecco, quindi la libertà di accesso dovrà, come dire, sposarsi con una modalità organizzativa e di accesso leggermente diversa, quindi dovrà far conto del fatto che saranno definite delle piazzole, dei percorsi, ma questo nell'ottica di dare un miglior servizio a chi verrà sulle nostre spiagge. Senta, io non so se voi a Rimini avevate già piazzato, non lei insomma, ma gli operatori degli stabilimenti balneari, gli ombrelloni, perché le linee guida sono cambiate proprio nelle ultime ore e sono diventate meno severe, cioè, come dire, si è lasciato che gli ombrelloni potessero essere un pochino più vicini tra di loro, che non rispetto a quello che aveva previsto il comitato tecnico scientifico. Quindi da noi non le hanno ancora piazzate, però voglio dirvi una cosa: Rimini è già ben al di sopra come distanziamento degli ombrelloni, sì, anche delle linee guida, poi tra l'altro la nostra regione è fissata a 12 metri quadri, ma noi siamo già al di sopra di norma, diciamo, rispetto a quelle distanze. Quindi lei, assessore, ci sta dicendo che in qualche modo, almeno nella vostra riviera romagnola di Rimini, quasi non sarete costretti a cambiare l'attuale collocazione? Io vi dico di più, la cambieremo in meglio, perché vogliamo ancora avere più distanziamento, perché lo pensiamo come un valore aggiunto, e su questo mi sto confrontando con tutte le categorie e le associazioni balneari, è un valore aggiunto nell'offerta del prodotto turistico di quest'anno. Però quello che vi stavo dicendo prima è che già la nostra situazione di partenza era ampiamente contenente quelli che erano i parametri di distanziamento, ad esempio, degli ombrelloni. Sì. Vogliamo migliorare, perché lo crediamo utile e opportuno per avere un prodotto turistico ancora più in linea con quelle che sono le richieste di questa stagione. Ma quindi pensa che possa esserci un leggero, come dire, calo dell'offerta di posti, perché se volete un po' migliorare lo spazio è quello, ci sarà un piccolo calo, avete provato a quantificarlo? Ma la nostra offerta era già molto ampiamente accogliente della domanda, diciamo così. Non temete di lasciare nessuno fuori. Non temiamo di lasciare nessuno fuori, neanche temiamo di fare i prezzi. Vogliamo semplicemente migliorare la qualità di quello che è adorato la nostra spiaggia. Va bene, grazie all'assessore Frisoni di Rimini. Grazie per essere stata con noi. E va bene, da questo punto di vista notizie anche abbastanza rassicuranti dalla riviera romagnola. Staremo a vedere, di spiagge parleremo ancora naturalmente. È un po' l'Eldorado di tutti noi dopo 2 mesi e mezzo, 3 di lockdown. 13:29, ci fermiamo, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Avvia l'assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 100 paesi chiedono un'inchiesta sul coronavirus. Assente Taiwan per il veto cinese. L'Italia riparte, più traffico e bar aperti nelle città, ma non c'è il pienone. Tra i commercianti prevale la prudenza. Regioni con regole diverse, mascherine all'aperto in Sicilia, spiagge attive in Sardegna, obbligo di misurazione delle temperature in Lombardia per i ristoranti. Consumi crollati del 47% ad aprile, intanto, dice Confcommercio, molti negozi non riusciranno a superare la crisi. Il punto di Alberto Orioli. Vi ricordate la task force di Vittorio Colao, uno dei manager migliori d'Italia e molto apprezzato nel mondo? Non vi sareste aspettati anche voi un cenno durante il solenne discorso del cortile di Palazzo Chigi con cui il premier Giuseppe Conte ha dato il via alla fase 2? Anzi, il percorso più razionale doveva essere questo. La task force produce un documento con le indicazioni tecniche per la fine del lockdown, il Presidente del Consiglio e il Governo le esaminano e le recepiscono in tutto e in parte, e il Paese naturalmente si allinea. Invece della task force non si è detto nulla. È rimasta piuttosto la grande confusione istituzionale nel difficile rapporto tra Governo centrale e Regioni. La sensazione finale è che anche la Commissione Colao sia stata istituita per un'esigenza di immagine, una copertura tecnica nel momento in cui la politica annaspava nel panico rispetto all'evento sconosciuto della pandemia, e anzi tanto annaspava che di task force ne ha costituite a vari livelli almeno un centinaio, con oltre 1400 esperti ingaggiati. E l'ultima trovata, soprattutto ad uso dei media, è stata l'inserimento delle donne, che mancavano e giustamente erano state rivendicate a suon di flash mob sulla rete, e per fortuna, perché hanno arricchito e di molto il parterre professionale del gruppo. Peccato che però servirà a nulla, un nulla naturalmente rispettoso delle quote rosa.